si nuda e prima me ne vado a fare il culo insieme ai miei lupi. Degaggio gruppi, mangiavo carcubi dubi. M'hai messo Udrich, tempo l'armadio di Gucci. O spaccio rubi, o fai la fame cugi. Ci davano degli stupidi, G-Wagon era lucida. Fai soldi, resta lucido. Da vender droga in pubblico a vendere dischi al pubblico. Tu sai come ci si sente a perdere tutto. Papà ti paga tutto, quindi bottoni dubito. Non ho mai chiesto aiuto, c'è sempre una via di fuga. Scappo vitve dalla pattuglia, a fuoco tutta la questura. Nella rissa infilza, via dalla mischia in pista, mischia la mista pizza. Ok, non sei coi miei, segnato in lista. C'è chi ci prova e muore, nella caserma si ferma il cuore. Guerra con le parole, la tua pistola non fa rumore. Te due con Simba, fai chi ci sfida, missione suicida, non c'è via d'uscita. Sono ancora qua nel club, coi fra del clan Uchika. Question, if gang pull up, tornerai indietro per un fratello. Sopra la metro, stavo nel bando, certi ricordi non li cancello. Genova, vieni, gelo fra, 100 fan, portano il disco nel cielo. Lo fa. Vengo da dove non c'è alcuna regola. Anche se sono in giro coi gangsta, questo è il suono della protesta. Non vivo di prepotenza, tu non mi metti i piedi in testa. Sono nel hood, Cricus, mai bevuto i Knusa. Problemi di rabbia, pitbull, il tuo rap mi stufa. Mangio tartufo, il mio socio spaccia, l'altro ruba. Pau,